Di tanto in tanto, ogni 2 o 3 mesi, a una certa ora della notte, i rumori della città all'improvviso si spengono. E allora si ode il ticchettio dell'orologio. Per mesi e mesi nessuno se ne era ricordato, eppure continuava a camminare. E anche adesso continua. Cammina, dici? Corre, galoppa, vola, capisci? È il tempo, precipita, divorando la nostra vita. Olè!